come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qua, gentili ascoltatori, 18:35 minuti in questo momento, numeri per chiamarci in diretta, numero verde 800 24 00 24 per i vostri interventi con le vostre opinioni in diretta alla Zanzara, sms 349 238 6666, la Zanzara @ radio24.it, TG2. All'Italia anche oggi decine i voli cancellati, l'ira dei passeggeri fino a 12 ore in coda alle biglietterie. Maroni, basta illegalità, sui disservizi indagano due procure. Eluana, giudice della Cassazione in Camera di Consiglio per l'ultimo verdetto. La Santa Sede ribadisce la morte per fame e per sete sarebbe una mostruosità. 20 anni e 3 minorenni che uccisero Lorena Aniscemi, imputati in lacrime. Al TG2 lo sfogo del padre della ragazza. Questa non è giustizia, meritavano l'ergastolo. Troppi antibiotici in Italia, un'emergenza sanitaria per il sottosegretario alla salute. Non sono un'aspirina, impariamo a usarli. Effetto negativo, batteri in aumento. Allora, mentre la maggior parte delle carceri italiane è sul punto di esplodere a causa del sovraffollamento, e ripeto ancora una volta, nonostante l'indulto di 2 anni fa, a Reggio Calabria c'è un penitenziario nuovo, completamente vuoto. C'è solo il custode, fatto, finito, pronto a ospitare fino a 300 reclusi. 300 reclusi non sono pochi, certamente non servirebbe solamente questo carcere a Reggio Calabria, però non è stato mai utilizzato. È terminato, la costruzione è terminata nel 2005, è costato più di 90 milioni di euro. E perché non funziona, nonostante ci vogliano altri 2,5 milioni all'anno per custodirlo? Perché manca una strada, come riferisce oggi il Corriere della Sera. Il commissario dice: sto per dimettermi, il sindaco: aspettiamo i fondi, c'è solo un sentiero di campagna per raggiungere la struttura ed è troppo rischioso farci passare i detenuti. Studio aperto. Litiga con il padrone della fabbrica e lo uccide colpendolo con una spranga. Tragedia di un'azienda di metalli in provincia di Brescia. L'assassino è un dipendente di origine albanese. La vittima è un imprenditore di 45 anni. Da tempo non andavano d'accordo. L'omicida è stato arrestato poco dopo dai carabinieri. Orrore a Rimini. Cosparso di benzina e dato alle fiamme un barbone mentre dorme su una panchina. Ora è ricoverato in condizioni gravissime. Forse è stata una vendetta. L'uomo, 46 anni, difendeva il parco dagli spacciatori. I responsabili, avverte il sindaco, saranno duramente perseguiti. Concluso da mezz'ora lo sciopero selvaggio di piloti e assistenti di volo. Un'altra giornata di passione per migliaia di passeggeri. Cancellazioni, ritardi e lunghe code agli imbarchi. Scattata la precettazione decisa dal governo, mentre le procure di Roma e Civitavecchia aprono inchieste per interruzione di pubblico servizio. Ma che giustizia è questa? Dovevano marcire in carcere. Si sfoga il padre di Lorena Cultraro dopo la condanna a 20 anni per i 3 ragazzi di Niscemi che hanno strangolato e gettato in fondo al pozzo la figlia 14enne. Ci voleva la sedia elettrica, invece tra amnistie e condoni presto saranno fuori. Ho denunciato 3 stalker, ma sono tutti a piede libero. Lo rivela Michelle Hunziker. In Italia la legge c'è, ma non viene applicata, dice. Bene, dopo Michelle Hunziker andiamo subito al menù della giornata alle 18:38 col numero di telefono subito a vostra disposizione 800 24 00 24. E, insomma, show di Berlusconi oggi in una conferenza stampa a proposito intorno alla visita del presidente brasiliano Lula. E innanzitutto c'è una sua ulteriore interpretazione della vicenda dell'abbronzato, cioè di Obama, sentitela. Il presidente Obama si trova in una situazione che entrambi giudichiamo molto difficile. Il consiglio che io mi sono sentito di dare a lui è di non continuare questa escalation di rapporti negativi tra l'Occidente, l'Alleanza Atlantica e la Federazione Russa. Avete anche sentito di come è stata cambiata incredibilmente una mia affettuosità, una mia carineria nei suoi confronti per qualcosa di insultante o che avesse in qualche modo attinenza al razzismo. Io ho denunciato con chiarezza, chiamandoli imbecilli e miserabili, coloro che si erano buttati su questa cosa. Devo dire che il mio supporto, il supporto del mio paese, la nuova amministrazione americana sarà il più totale e il più convinto possibile. Imbecilli e miserabili quelli che hanno male interpretato quella che era una mia carineria. Questa la ulteriore spiegazione, o comunque le accuse ulteriori di Berlusconi per chi ha interpretato in maniera negativa, secondo lui naturalmente, quelle frasi famose. C'è un Berlusconi che naturalmente fa show quando fa le conferenze stampa, e allora ha portato davanti al presidente brasiliano Lula i giocatori brasiliani del Milan, che sono tanti, in aereo credo da Milano, in un aereo privato da Milano. Sentite. Il Brasile qui è rappresentato, e oggi ho cercato di fare questa sorpresa al presidente Lula, che era molto gradita come uomo che vive il calcio come metafora della vita e che quindi sa tutto del calcio, e ha stupito me, Leonardo, Cacà, tutti gli altri. Abbiamo avuto delle conversazioni piacevolissime. Vabbè, questo è Berlusconi che presenta i giocatori del Brasile a Lula, una delle novità mediatiche di giornata. Sempre 800 24 00 24, arriviamo con Alitalia, arriviamo, perché anche oggi non ci vogliamo fare scappare l'occasione per parlare di quello che sta avvenendo negli aeroporti italiani. Prima però la famiglia del rettore di Foggia. E c'era in un paese una famiglia molto in voga, avevano tutti la toga, avevano tutti la toga. C'era in un paese una famiglia molto in voga, avevano tutti la toga, la famiglia del rettore. Antonio Muscio, quello di ieri, il rettore, ex rettore dell'Università di Foggia, che il 30 ottobre, un giorno prima di andarsene, assume, firma l'assunzione del figlio. Naturalmente il figlio era stato promosso con un concorso, però guarda caso la firma avviene un giorno prima che di lasciare la carica più alta dell'Università di Foggia. Sentitelo. È una cosa che mi perseguita dal giorno in cui ho messo piede in questa università. Mia moglie lavora da 2 anni prima di me. Da 2 anni prima di me. Lavora dal 66. Io mi sono laureato nel 67 e non sapevo nemmeno chi fosse mia moglie. L'ho conosciuta nel 68, dopo che io mi sono laureato. Mia figlia ha fatto un concorso 12 anni fa. 12, quando io col rettorato, e l'ha fatto all'università quando dipendevamo da Bari. Si è fidanzata con un ricercatore universitario. Hanno voluto criminalizzare pure questo. Devo dire a mia figlia di non fidanzarsi con un ricercatore universitario. Tutto qua. Il padre insegnava economia, la madre preside geologia. Lo stesso Muscio ha citato il figlio, ma l'abbiamo fatto anche noi, la moglie Aurelia Eroli, moglie di Muscio, oggi in pensione, dirigente del personale tecnico amministrativo dell'università, e avete sentito la spiegazione di Muscio. E poi la figlia Rossana, altra figlia del rettore, che lavora anche lei nell'Ateneo e ricopre lo stesso ruolo che per anni ha svolto la madre. Vengo da una posizione umile, da una famiglia umile, non sono un privilegiato. Sentite ancora Muscio. Io sono un tipo riservato per natura. Dico solo che la vita non mi ha regalato niente. Quello che ho ottenuto l'ho ottenuto solo con l'onestà intellettuale e morale e con i miei sacrifici. D'altra parte le mie origini lo dimostrano. Io non sono una persona socialmente, di origini socialmente elevate. Quindi non ho altro da dire. Mio figlio ha sudato e si è girato il mondo per formarsi. Da 6 anni ha partecipato a un concorso. Vogliono criminalizzare un atto che è stato firmato il 30 di ottobre, quando hanno preso servizio 7-8 ricercatori insieme. Adesso che cosa si vuol vedere di male? Che cos'altro da dire? Dimostrassero loro che c'è l'illecito. Tutto con grande onore fu già promosso ricercatore, la cognata. Lo spaccato di Foggia, 18:43. Andiamo alla vicenda all'Italia. C'è da registrare oggi soprattutto la rabbia dei passeggeri, già ieri naturalmente. Meglio se fallite, questa è la frase più gettonata nei vari aeroporti, dal TG1, sentite. Sono un po' arrabbiato perché io devo ancora arrivare a Winnipeg, che Winnipeg è dietro Toronto. Mia sorella si è sentita male e non l'hanno fatto sedere neanche al check-in dove mettono le valigie. Dalle 7:30 siamo qui, purtroppo, pronto per imbarcarci, invece è ricominciato da capo. Sono arrabbiati, infuriati, oggi il loro volo è in ritardo o è stato cancellato. Per molti è stata una notte lunga, l'Alitalia ieri ha riprotetto alcuni passeggeri su voli di altre compagnie, per altri ma non per tutti è stato garantito il riposo in albergo. Lo sciopero deciso ieri dal comitato di lotta ha creato disservizi. Il ministro Matteoli ha precettato i lavoratori in mobilitazione e oggi i CUB rispettano la precettazione. Allora, tra l'altro Matteoli e Martone, che è il presidente del comitato degli scioperi, della commissione di sciopero di vigilanza sugli scioperi, ha detto ci possono essere azioni penali. Sappiamo tutti come finiscono queste cose, basta ricordarsi del processo tentato e risoltosi in nulla sulle malattie in massa nel 2003. Ma c'è grande demagogia intorno alla vicenda dell'Italia, perché naturalmente tutta la questione CAI è avvolta ancora un po' nel mistero e anche nella scarsa trasparenza, ci sarà modo di parlarne, ma c'è chi si getta sulla preda, sulla discussione intorno all'Italia in maniera, come dicevo prima, molto demagogica. Uno di questi è certamente Di Pietro, un suo senatore o deputato, adesso non ricordo, addirittura ieri senatore, arringava i dimostranti, i ribelli, era insomma dalla parte di chi ha bloccato gli aeroporti, un senatore di Di Pietro. Lo stesso Di Pietro parla di delinquenti della CAI, sentite. Ma non crediate che i lavoratori all'Italia siano loro i delinquenti. I delinquenti sono coloro che l'hanno fatto fallire all'Italia, non salvare. L'hanno fatta fallire, poi altre volte ha parlato di quelli della CAI solo come dei specie di avvoltoi che stanno lì grazie a Berlusconi, eccetera, eccetera. Ripeto, questo al netto di tutte le critiche che si possono fare sull'operazione CAI, ma anche il centrodestra. Sentite adesso, per esempio, Italo Bocchino, che credo che sia il capogruppo del PDL alla Camera. Il quale Bocchino cosa dice, o vice capogruppo, adesso non ricordo bene, il quale Bocchino cosa dice? Dice, beh, insomma, questi piloti la devono smettere, sentite. Non c'è più spazio per gli irresponsabili che vogliono difendere i privilegi accumulati in questi anni. È opportuno che i piloti firmino singolarmente il contratto, altrimenti la nuova Alitalia potrà rivolgersi al mercato di questi lavoratori. Dice che non c'è più spazio per queste cose, eppure i piloti, e non solo i piloti, erano i più coccolati da parte del centrodestra, in particolare di Alleanza Nazionale. Questi privilegi che negli anni si sono accumulati da parte dei piloti, di alcuni dipendenti, sono stati favoriti e certamente non ostacolati da diversi partiti politici, tra cui in prima fila Alleanza Nazionale. Primo ascoltatore nella prima parte della trasmissione oggi, Massimiliano da Roma. Buonasera Massimiliano. Buonasera dottore. Dica. Allora, io innanzitutto le faccio complimenti alla trasmissione. Io volevo intervenire in seguito a quello che è successo in questi giorni. Io non sono d'accordo con i modi che sono stati presi in questi giorni da un gruppo comunque indipendente. I sindacati, io non sono sindacalista, però devo essere sincero, i sindacati in questo c'entrano veramente poco. Se non cosa fa lei di mestiere, Massimiliano? Assistente di volo. Sì, all'Italia, no? All'Italia, sì. Sta scioperando in queste ore? Io in questo momento sono di riposo, quindi non sto scioperando, e comunque non avrei scioperato perché non sono questi i modi che intendiamo noi di gruppo, tutti quanti noi ad operare, anche che in questo momento scioperare significa penalizzare un'azienda che fallisce alla fine del mese e non prendersela con i veri fautori di tutto ciò. Però posso capire le persone che hanno familiari a carico o che malati, posso capire i colleghi che sono stati obbligati a prendere il part-time e che rischiano perciò di non essere chiamati nella nuova azienda. Io le chiedo, dottore, come posso dal 1° dicembre andare a prendere servizio sapendo che una mamma casomai separata, che ha un figlio handicappato oppure diversamente abile, come è giusto dire, non avrà il suo posto di lavoro? Beh, mi scusi però Massimiliano, io non so di chi sta parlando lei, non penso che ci sia un accanimento da parte di CAI nei confronti quando decide di mandare le lettere di assunzioni. Mi auguro di no, però non c'è una previsto. Discriminazione, spero di no. Però questo è previsto. Che cos'è previsto? Sul contratto, sulla bozza firmata. Che non possono essere assunte persone che hanno figli a carico handicappati, mi scusi. Purtroppo questo non lo dicono gli organi di stampa, ma è così, è la verità. Massimiliano, mi mandi attraverso il fax, attraverso una mail, una bozza di contratti in cui esplicitamente c'è scritto che la CAI non può assumere o non vuole assumere persone. Si prende la libertà. Sì. Di poter assumere o meno persone che abbiano necessità di part time o persone che abbiano a carico la legge 104 per familiare malato. Massimiliano, ripeto, se c'è una discriminazione così esplicita da parte di CAI nei confronti delle persone che hanno devono assistere una persona, che loro chiameranno tutti, dottore. Io non è che no, io non lo so, Massimiliano, chiameranno. Però qui le cose vanno vanno chiarite fino in fondo. Certo, c'è una grossa partita che si sta giocando, questo è evidente. Certo. Oltre alla questione del rispetto, no, degli accordi di settembre, su cui punta molto una parte del sindacato, c'è la... quelli che avevamo firmato. Sì, sì, però anche qui, anche qui le cose vanno chiarite. C'è un'altra questione che mi sembra fondamentale. Sì. CAI vuole decidere da sola chi assumere e chi non assumere, esatto, mentre i sindacati vogliono mettere bocca in questa questione. Questo mi sembra il nodo principale, al di là, esatto, della questione delle esatto, donne, delle persone, sì, che devono assistere. Una cosa, e dunque c'è il potere sindacale in ballo, cioè quanto potere sindacale ci sarà nella prossima azienda? Questo c'è in ballo in questo momento. Questo sicuramente c'è in ballo, questa fa parte della politica della nazione, in ogni cosa ci sono i sindacati, questo sono d'accordo con lei. Però lei mi deve dire una cosa, sì, loro, che nessuno di loro è esperto di traffico aereo, nessuno di loro ha mai lavorato in questo settore, sì, su che cosa si baseranno per chiamare me piuttosto che un altro collega? Non lo so, su scelte aziendali. Lei poi fa una considerazione, nessuno è esperto di volo, qui lei rimanda ad un'altra questione, cioè la solidità della questione CAI, che è un'altra cosa. Guardi Massimiliano, e la ringrazio di questa telefonata, molte cose andranno chiarite rispetto a quello che lei ha detto. Io personalmente ero per uno, per il fallimento, due, per la soluzione Air France, per cui penso che in ogni caso questa della CAI sia un mezzo pasticcio. In ogni caso, e in ogni, anche se finirà bene, insomma, se finirà bene, anche se questa soluzione in queste ore, poi se una soluzione in queste ore verrà trovata. La ringrazio. 800 24 00 24. Il caso di Gabriella Carlucci, le Iene se la prendono, la trasmissione alle Iene se la prende con Gabriella Carlucci per le assenze. Secondo me, in questo caso, per le assenze in Parlamento sulle votazioni, sbaglia un po' obiettivo, e poi vi dirò perché. La Carlucci se la prende molto per questo filmato che è stato diffuso, un'anticipazione diffusa su un sito, credo il Corriere, Corriere.it, o forse Repubblica, non ricordo, comunque su internet, della intercettazione, chiamiamola così, di una truppe delle Iene nei confronti della Carlucci davanti al Parlamento, anzi a Matrix è stato anticipato. Sentiamo. €10, onorevole, non si arrabbi? No, non si arrabbi, dobbiamo fare la multa. Va bene, vai, fatti la multa. Allora, sono le 16.30, le votazioni in aula alla Camera sono iniziate da circa mezz'ora e l'onorevole Carlucci arriva in ritardo. Quant'è l'arretrato? 55. Ci dovrebbe dare anche le vecchie sedute, le 55 sedute. Okay. Proviamo. Posso dare la multa? No, la paga con calma. Siete dei stupidi imbecilli. Ma così sporca la piazza, devo fare anche la multa perché ha sporcato la piazza. 5,50. No, microfono no. Allora, io sono presente tutti i giorni, quindi a me la multa di €10 mi fa un baffo. Va bene. Tu invece torni in Commissione Cultura. Va bene. E tu anche, vai in Commissione Cultura. No, ti avete rotto, non siete né simpatici né divertenti. Mi dia il microfono. No, non te lo do. Così finisci di lavorare, va bene? Anzi, te lo smonto così non ti neanche lavorare. Va bene. Sono veramente stupato. Questo l'ha già fatto a Sgarbi, Hai imparato da Sgarbi? Questo è furto. E adesso rompiamo anche a te. No, onorevole. Dammi questa telecamera. Onorevole, ma perché? Perché mi avete rotto? No, voglio togliere la cassetta. Ora, l'argomento delle assenze, al di là dell'aspetto un po' trash delle Iene con la Carlucci, l'argomento delle assenze dei deputati alle votazioni, comunque delle assenze dei deputati e dei senatori in Parlamento, è un argomento serio e importante. Oggi il Sole 24 Ore pubblica una piccola tabellina abbastanza istruttiva sulle presenze e sulle assenze. Si scoprono delle cose abbastanza curiose, ma anche logiche volendo. Il gruppo dell'Italia dei Valori, per esempio, è il gruppo politico più assente alle votazioni, con il 25,8% di assenze. Dopo c'è il gruppo misto, 26,89%. All'interno di quei dati, poi, sul sito delle Iene, la Carlucci ha 55 assenze su 685 votazioni, dunque l'8,03%, è uno dei dati forse più bassi. TG3. All'Italia la precettazione non ferma la protesta, 70 i voli cancellati e nuovi ritardi, la procura apre un'inchiesta, Berlusconi linea dura. La Cassazione decide sulla sospensione dell'alimentazione forzata per Eluana, altolà del Vaticano sarebbe un assassinio. Gli hanno versato addosso una tanica di benzina e gli hanno dato fuoco, a Rimini un senza tetto in gravi condizioni, si cercano i responsabili. La paura della recessione riprende il sopravvento, a picco tutte le borse, Tremonti sostiene imprese e famiglie senza sforare il deficit. Le famiglie che faticano ad arrivare a fine mese riscoprono il libretto nero, emblema della spesa a credito negli alimentari negli anni 50. Condannati a 20 anni di carcere tra i minorenni imputati per l'omicidio di Loredana Cultraro, la 14enne uccisa a Niscemi 6 mesi fa. Giusy Ferreri, fenomeno musicale dell'anno, dedica il primo album alla nonna Gaetana, ma non lascia il posto di cassiera. Altre due o tre notizie da commentare oltre a quelle del menu precedente dell'inizio di trasmissione. Insomma, avete sentito la Santa Sede che a proposito dell'atteso verdetto in Cassazione sul caso Englaro dice che sospendere l'idratazione significa uccidere una persona, uccidere Luana Englaro. Dunque gli stop. Lo stop agli alimenti e l'omicidio. E poi altra notizia, sembra non essere andate proprio a buon fine le firme per i referendum proposti da Beppe Grillo, ricordate, secondo la Cassazione potrebbero essere inferiori alle 500.000 previste, problemi di tipo anche formale, dunque sono a rischio tutti i quesiti sull'informazione. Comunque la si pensi, non è una buona notizia. E la vittoria del Partito Democratico in Trentino domenica scorsa, nel passato weekend, rischia di trasformarsi in un problema politico per il Partito Democratico, perché insomma è stata ottenuta con un asse, con un accordo con l'UDC. Leggo prima un'agenzia di Rosi Bindi che dice no ad accordi con l'UDC, no ad un asse privilegiato con l'UDC. Rosi Bindi vorrebbe il ritorno della vecchia Unione. Dunque, chi ha vinto in realtà in Trentino? Ha vinto il Partito Democratico o ha vinto un'alleanza di nuovo conio, per chiamarla come la chiamò Rutelli? Sentiamo Sky TG24. All'Italia giornata di caos negli aeroporti, cancellati 100 voli, sciopero concluso alle 18. Matteoli ordina la precettazione degli scioperanti, la magistratura apre un fascicolo. E Luana, il PG della Cassazione, ricorso inammissibile, il Vaticano sarebbe omicidio. Obama, Berlusconi assicura il più totale e convinto sostegno dell'Italia. Mutui Tremonti, faremo il possibile per le famiglie, borse e giornata nera a Milano, meno 5,13. Pisano a capo della commissione antimafia, Cosa Nostra, prima azienda italiana. Rimini, gli danno fuoco mentre dorme, gravi ustioni per un clochard. Il delitto di Niscemi, 20 anni di carcere per i 3 minorenni che uccisero Lorena. Un anno fa la morte di Sandri, il capo della polizia, mi assumo la responsabilità. Processo Gea, il PM chiede 6 anni per Luciano Moggi e 5 per il figlio Alessandro. Bene, 1919 800 24 0024 il numero per chiamarci in diretta. Berlusconi è l'ultima interpretazione della vicenda di Obama abbronzato, imbecilli e miserabili quelli che mi hanno travisato. Sentiamolo poco fa durante una conferenza stampa, comunque a margine di una conferenza stampa con il presidente brasiliano Lula. Avete anche sentito di come è stata cambiata incredibilmente una mia affettuosità, una mia carineria nei suoi confronti per qualcosa di insultante o che avesse in qualche modo attinenza al razzismo. Io ho denunciato con chiarezza, chiamandoli imbecilli e miserabili, coloro che si erano buttati su questa cosa. Devo dire che il mio supporto, il supporto del mio paese, la nuova amministrazione americana sarà il più totale e il più convinto possibile. Allora, riprendiamo la vicenda all'Italia dopo queste ennesime spiegazioni di Berlusconi e queste parole imbecilli e miserabili per coloro che avrebbero travisato, secondo Berlusconi, le sue parole o che le avrebbero mal interpretate non come una carineria, bensì come un insulto razzista nei confronti di Obama. Riprendiamo la vicenda all'Italia, perché al di là di tutte le disquisizioni su chi si sta comportando bene, su CAI, eccetera, ci sono le vittime di questa situazione, che ancora una volta nella vicenda all'Italia sono gli utenti. Sentite voci da Fiumicino e da Linate, in particolare da Fiumicino. Sono un po' arrabbiato perché io devo ancora arrivare a Winnipeg, che Winnipeg è dietro Toronto. Mia sorella si è sentita male e non l'hanno fatto sedere neanche al check-in dove mettono le valigie. Sono alcune delle voci raccolte nella giornata da tutti gli organi di informazione da Fiumicino e da Linate, dove la situazione è ancora bloccata e molti voli sono stati cancellati. C'è chi tenta di salire sopra questa protesta, una protesta di minoranze, di 200-300 persone che però, nonostante tutto, in Italia riescono ancora a bloccare. Di Pietro dice: i veri delinquenti non sono quelli che scioperano, ma sono, sentite. Ma non crediate che i lavoratori all'Italia siano loro i delinquenti. I delinquenti sono coloro che hanno fatto fallire l'Italia, non salvare. I delinquenti sono quelli che hanno fatto fallire l'Italia e anche la politica, per carità, in questo caso non Di Pietro, perché Di Pietro è nuovo da un certo punto di vista in politica, certamente la politica è quella che ha fatto fallire all'Italia, insieme a tante altre cose, i sindacati, i manager, eccetera, eccetera. Il rettore dell'Università di Foggia, lo abbiamo sentito oggi, non vuole intervenire in diretta, però abbiamo raccolto qualche sua dichiarazione, qualche sua difesa nell'ennesimo scandalo di Parentopoli. Canzonetta. C'era in un paese una famiglia molto in voga, avevano tutti la toga, avevano tutti la toga. C'era in un paese una famiglia molto in voga, avevano tutti la toga, la famiglia del rettore. Il padre insegnava economia, la madre preside geologia, il fratello poverino aveva una cattedra da Avellino. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Allora, come si è giustificato per il fatto che ha firmato il contratto di assunzione per il figlio il giorno prima di andarsene, che c'è anche la moglie all'interno dell'università, che c'è l'altra figlia e che l'altra figlia è sposata o fidanzata, non so bene, credo sposata, con un ricercatore sempre in quella università. Sentiamolo. È una cosa che mi perseguita dal giorno in cui ho messo piede in questa università. Mia moglie lavora da 2 anni prima di me. Da 2 anni prima di me. Lavora dal 66, io mi sono laureato nel 67 e non sapevo nemmeno chi fosse mia moglie. L'ho conosciuta nel 68, quando, dopo che io mi sono laureato. Mia figlia ha fatto un concorso 12 anni fa, quando io col rettorato, e l'ha fatto all'università quando dipendevamo da Bari. Si è fidanzata con un ricercatore universitario. Hanno voluto criminalizzare pure questo. Devo dire a mia figlia di non fidanzarsi con un ricercatore universitario. Tutto qua. Beh, effettivamente la questione della figlia che si fidanza con un ricercatore universitario della stessa università e anche la questione della moglie, sembra che l'abbia conosciuta prima, forse non sono così rilevanti. Certamente avere firmato l'assunzione del figlio un giorno prima, forse sì, insomma. E lo stesso fatto che chissà perché quel tipo di insegnamento del figlio è una novità per la facoltà di agraria. Questo comunque era l'ex rettore dell'Università di Foggia, una università che ha quasi quadruplicato il numero degli insegnanti, come ieri riportava il Sole 24 Ore, negli ultimi anni. Sentiamolo ancora dire: io vengo ho origini molto umili, non sono un privilegiato. Il rettore, ex rettore dell'Università di Foggia. Io sono un tipo riservato per natura. Dico solo che la vita non mi ha regalato niente, quello che ho ottenuto l'ho ottenuto solo con l'onestà intellettuale e morale e con i miei sacrifici. D'altra parte le mie origini lo dimostrano, io non sono una persona socialmente di origini socialmente elevate, quindi non ho altro da dire. Mio figlio ha sudato e si è girato il mondo per formarsi, a 6 anni ha partecipato a un concorso. Vogliono criminalizzare un atto che è stato firmato il 30 di ottobre, quando hanno preso servizio 7-8 ricercatori insieme. Adesso che cosa si vuol vedere di male? Che cos'altro da dire? Dimostrassero loro che c'è l'illecito, tutto qua. Il fatto che non ci sia illecito, com'è evidente, non significa che sia cosa buona e giusta, nostro dovere, eccetera, eccetera. 800 24 00 24. Non è questa la sede per indagare sulle reali motivazioni che sono alla base del passaggio di parlamentari da uno schieramento all'altro. Sicuramente ci sono e ci saranno cambiamenti dettati da ragioni ideali e politiche, nel senso nobile del termine, ma non si può escludere che in qualche caso possano essere la conseguenza di un vero e proprio mercato della politica. Cosa è successo? Che il PM della Procura di Roma, che si chiama Angelo Antonio Racanelli, ha chiesto l'archiviazione al GIP per Berlusconi e altri due indagati. Per che cosa? Erano indagati per istigazione alla corruzione. L'inchiesta era sulla compravendita di senatori, una delle inchieste in cui è coinvolta ancora Berlusconi. Dunque qui non c'entra niente il lodo Alfano, eccetera eccetera. Si chiede l'archiviazione. Ci sono anche delle considerazioni, cioè non sono cose penalmente rilevanti. Questo vuole dire il PM, poi naturalmente la cosa dovrà essere confermata. Un dato che emerge dalle indagini e dagli elementi acquisiti è che sicuramente fu posto in essere da Berlusconi direttamente e indirettamente fra l'estate e l'autunno del 2007 un'attività diretta a convincere senatori che appoggiavano il centrosinistra a passare all'opposizione. A prescindere dalla valutazione di natura politica, che non competono al PM, si è trattato di attività non penalmente rilevante. Dunque, non si tratterebbe di un'attività penalmente rilevante. Ci furono anche delle intercettazioni, ricordate? Le due cose per cui ti disturbo, Agostino, sono una, perché tu mi hai parlato di quel calabrese, sì, eletto in Australia. E lì su quello io ho delle notizie, guarda, importanti, molto, ecco, importanti e possibilmente positive se governata la situazione. Sì. E allora io su quello sono interessato, perché sto facendo l'operazione, sto cercando di aggregare più senatori possibile, no? Sì. Ecco, quindi su quello se hai delle cose da dirmi... Se io ho delle cose, se vuoi gliele posso già dire al telefono. Sì, sì, dimmi. Allora... Questa era una delle intercettazioni tra Berlusconi e Sacca. Per chiudere, le iene contro la Carlucci, deputato del PDL, sulle sue assenze. In realtà non ne avrebbe fatte molte alle votazioni. I deputati più assenti, i parlamentari più assenti alle votazioni sono quelli della Camera, dunque deputati, sono quelli dell'Italia dei Valori insieme al gruppo misto. La Carlucci l'8%, qualche ascoltatore mi dice non ce l'avevano per le assenze alle votazioni, per il ritardo alle votazioni. Non è così, perché... tutto nasce dal fatto che il gruppo del PDL, arrabbiato molto per l'assenza di alcuni suoi deputati, ha messo 10 euro di multa, non so, a seduta, a votazione, ogni minuto, non ricordo bene. In ogni caso la Carlucci non sembra essere tra le più assenti, dunque l'obiettivo in questo caso delle Iene, che è un programma straordinario, mi sembra sbagliato, come sbagliata la reazione della Carlucci, che vuole distruggere le telecamere, il microfono, sentite. €10, onorevole, non si arrabbi? No, non si arrabbi, dobbiamo fare la multa. Va bene, vai, fatti la multa. Allora, sono le 16.30, le votazioni in aula alla Camera sono iniziate da circa mezz'ora e l'onorevole Carlucci arriva in ritardo. Quant'è l'arretrato? 55. Ci dovrebbe dare anche le vecchie sedute, le sì, 55 va bene. Sedute. Muoviamoci. Posso dare la multa? No, la paghiamo non calma. Siete dei stupidi imbecilli. Ma così sporca la piazza, le devo fare anche la multa per ha sporcato la piazza. 5,50. No, il microfono no. Allora, io sono presente tutti i giorni, quindi a me la multa di 10 euro mi fa un baffo. Va bene. Tu invece torni in Commissione Cultura. Va bene. E tu anche, vai in Commissione. No, ti avete rotto, non siete né simpatici né divertenti. Mi dia il microfono. No, non te lo do. Così finisci di lavorare, va bene? Anzi, te lo smonto così non puoi neanche lavorare. Va bene. Cioè, veramente no, questo l'ha già fatto a Sgarbi, Hai imparato da Sgarbi? Vabbè, questo è punto. E adesso rompiamo anche a te. No, onorevole, ma perché? Perché mi avete rotto? Voglio togliere la cassetta. Il punto è che quando qualcuno finisce sotto le grinfie delle Iene poi viene bollato per sempre come fannullone, come scansafatica, come quello che non va in Parlamento. Dopo questa raffica di notizie e di stimoli per i vostri interventi, iniziamo subito con Dario da Roma. Buonasera Dario. Buonasera, dunque io volevo dichiararmi una volta tanto d'accordo con il Presidente del Consiglio. Il calcio è effettivamente una metafora della vita, però io limiterei la metafora all'Italia. Il calcio è il gioco sportivo che ha la massima arbitrarietà in termini di regole, tant'è vero che dopo qualunque partita, qualunque sia il risultato, lo spazio dedicato alle recriminazioni dei motivi per cui qualcuno ha vinto è 20 volte superiore rispetto al gioco in quanto tale. Da questo punto di vista la vicenda dell'Alitalia non fa eccezione. C'è qualcuno che ha sbagliato clamorosamente, perché evidentemente c'era una soluzione prima delle elezioni, questa soluzione si è voluto non perseguirla. Adesso l'importante è che su qualcuno riesca a scaricare la responsabilità dell'errore su qualcun altro, cioè alzi il polverone, la confusione, e alla fine sarà sempre colpa dell'arbitro. Chi è che alza il polverone in questo caso? Beh, è evidente, No, me lo dica. Tutta la compagine governativa che aveva scommesso, aveva dichiarato che avrebbe salvato la compagnia di bandiera. Adesso, qualunque sia l'esito di questa vicenda, noi italiani ci rimetteremo un sacco di quattrini nostri, perché dobbiamo pagare i debiti. Perderemo quel minimo di concorrenza, almeno sulle tratte nazionali che c'erano, e quindi di fatto pagheremo un clamoroso errore, che in un paese dove c'è un minimo di tra virgolette liberismo economico, dove si premiano i migliori, non sarebbe mai accaduto. Allora, io vorrei che qualcuno degli elettori del centrodestra intervenisse in trasmissione e mi spiegasse una volta tanto qual è il pensiero liberista di questa coalizione. Cioè, se Alleanza Nazionale, come avete detto poco fa, ha difeso fino a ieri i piloti, no? Che sono una categoria evidentemente privilegiata, perché se hanno una professionalità, beh, se la vadano a rivendere, evidentemente. Se la professionalità non ce l'hanno, o se non è adeguata a quelli che sono i livelli retributivi del mercato, la perderanno, come è normale che succeda in qualunque mercato di tipo libero. Io ho la sensazione che in realtà, diciamo, molto elettorato del centrodestra non voti per avere maggiori libertà, ma per mantenere i grandi e a volte anche i piccoli privilegi, a volte addirittura diritti scambiati per privilegi, di cui in realtà, diciamo, queste persone dispongono. Io ovviamente sono un elettore del centro-sinistra, no, ma non è ma quello, sono uno di quelli, sono uno di quelli che con Alesina e Giavazzi pensa che il liberismo sia di sinistra. D'accordo, dai, adesso il discorso si allargherebbe al liberismo di destra, di sinistra. Mi sembra che alcune cose siano state già ampiamente dette da Tremonti da questo punto di vista, per cui su che tipo di approccio abbia questo governo, poi lo si può criticare oppure si può essere d'accordo. Io sono assolutamente in linea con la sua posizione, Dario, con quello che lei ha appena detto, dunque non c'è bisogno che lei chiami in causa un elettore di centrodestra, oppure naturalmente c'è chi può intervenire. Fosse stato per me, Alitalia doveva fallire da tempo. In seconda, come seconda opzione, c'era Air France pronta, per cui tutto il resto è un pasticcio, ed è un pasticcio credo anche per Berlusconi adesso risolvere definitivamente questa matassa. La ringrazio, Francesco da Brescia, poi Fabio da provincia di Isernia. Francesco, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Dica. Vorrei ritornare sulla Alitalia per una esperienza che mi ha creato un'angoscia da cui non mi sono ancora liberato. La settimana scorsa andai in Kirghizistan e usai i vettori dell'Air Flot con qualche preoccupazione. E però ho trovato che gli aerei erano pieni, zeppi, che i servizi, i pasti a bordo erano corretti e soprattutto che la puntualità era precisa. Ritornato a Mosca, per fare il tratto Mosca e Malpensa, mi trovai con l'Alitalia, forse per una collaborazione con l'Airflot. Probabile. E salì, quando il pilota dette l'ordine di allacciare le cinture di sicurezza, mi guardai attorno, vidi mia moglie perplessa, eravamo in 15. Su un aereo che poteva portare 200 più persone. Beh, questa sarebbe l'esperienza drammatica? Scusi, Francesco. No, drammatica perché ho visto nel volto delle hostess e soprattutto del pilota che a un certo punto, quando passò il carrello per la vendita degli oggetti, disse: vedete in che stato siamo ridotti. Inoltre, davanti, seconda fila, c'era un seggiolino di velto con l'armatura in metallo scoperta, che se fosse capitato qualcosa erano taglienti. Vabbè, Francesco, adesso non so valutare quel volo, che tipo di volo fosse. Io credo che ci fossero tutte le condizioni per un volo assolutamente normale, come succede sempre anche dall'Italia, naturalmente. Il fatto che fosse mezzo vuoto non è di per sé indice di nulla, naturalmente. Bisogna vedere l'orario, eccetera. Forse quel volo non sarà particolarmente redditizio, non so nemmeno, perché uno degli interrogativi, come oggi giustamente scrive Gianni Dragoni sul Sole 24 Ore, che riguardano l'Italia, la nuova CAI, è anche quello delle rotte, oltre agli investitori, oltre a quanti soldi, per quanti soldi CAI comprerà gli asset dell'Italia e a tante altre cose. La ringrazio. Fabio, provincia di Isernia, buonasera. Sì, buonasera dottore, buonasera a lei. Dica. Io lo seguo sempre con grande interesse, soprattutto per la sua pluralità di argomenti che tratta, e la domanda non è assolutamente provocatoria, però leggendo Repubblica di oggi, leggevo a pagina 26, Imprese e Mercati, quell'inchiesta che coinvolge la famiglia Marcegaglia nella gestione di questi 17 conti segreti o pseudo segreti, perché credo che sia un'inchiesta da trattare. E volevo sapere il suo punto di vista e soprattutto quello che lei pensa su una funzione così importante quale quella della presidenza di Confindustria, in una situazione di questo tipo. Mi sembra, come dire, fuori un po' da quello che si tenta di comunicare giornalmente in Confindustria circa la limpidezza, la trasparenza e tutte quelle belle parole che normalmente si usano in queste circostanze, soprattutto in questi momenti in cui forse l'etica dovrebbe sopperire a questo vuoto che si è creato, proprio perché probabilmente forse per bene. Ho capito, lei ha già condannato in maniera definitiva Emma Marcegaglia, il gruppo Marcegaglia, sulla base di un articolo oggi comparso a pagina 26 di Repubblica, mi sembra di capire. Ha già messo a rogo queste persone pensando che siano dei truffatori, delle persone che l'impressione è questa. Io non ho alcuna opinione su questo, ho letto quell'articolo e ho letto anche oggi un articolo che ha un titolo secondo me sbagliato rispetto a quello che poi c'è dentro e soprattutto a quello che è stato precisato anche oggi da Francesco Greco insieme all'avvocato di Antonio Marcegaglia, che è fratello della Marcegaglia. C'è un comunicato stampa, ma non ci mettiamo qui a fare i comunicati stampa, l'articolo di Repubblica, perché la discussione non è intorno a questo, però è abbastanza sintomatico il fatto che lei, sulla base di un titolo che è dell'articolo, poi anche nel mirino dei PM del Fisco, 17 conti segreti di Marcegaglia, intestati a Stena e M. Antonio, il gruppo, due punti, tutto regolare, abbia già dato delle lezioni di etica, di moralità, di eccetera, che riguardano il gruppo Marcegaglia. Io non devo difendere nessuno, anche se questa è la radio di Confindustria, però mi sembra un atteggiamento suo piuttosto singolare, o no? È un'inchiesta in atto. Volevo sapere. Ma guardi, sull'inchiesta in atto ci sarebbe da discutere. Forse c'è una. Le leggo un'agenzia ANSA di qualche minuto fa, del pomeriggio. Attualmente non c'è alcuna inchiesta, per esempio, nei confronti di Steno, M. Antonio Marcegaglia, l'ha detto l'avvocato Di Noia, difensore di Antonio Marcegaglia, e fin qui naturalmente sarebbe il difensore di Antonio Marcegaglia, già imputato nell'ambito dell'inchiesta Enipower, per la quale ha patteggiato 11 mesi di reclusione e un risarcimento di circa 6 milioni di euro. La dichiarazione del legale è stata confermata anche dal procuratore aggiunto di Milano, Francesco Greco, ed è arrivata, questo lo scrive l'ANSA, ed è arrivata dopo la pubblicazione su Repubblica dell'articolo di cui lei parla. L'avvocato Di Noia ha poi precisato che in realtà Antonio Marcegaglia era stato indagato, ma che la sua posizione è stata definita a primavera con il patteggiamento, e questo riguarda Antonio Marcegaglia, dunque non il nucleo che mi sembra del suo intervento. Da quanto si è saputo subito dopo la chiusura delle indagini sulla vicenda di Power, la procura aveva autorizzato la Guardia di Finanza, questa è sempre l'ANSA, a trattare le posizioni di tutti gli indagati, no, questo è Di Noia che parla, coinvolti, con la precisazione di non utilizzare poi si addentra nella spiegazione della vicenda di Antonio Marcegaglia. A questo punto è possibile, scrive sempre l'ANSA, che all'Agenzia delle Entrate di Mantova, sede legale del gruppo, possa essere stato avviato un contenzioso di tipo fiscale. Punto. Questa è la situazione. Cosa vuole che le dica, Fabio? Non ho alcuna considerazione da fare. Ripeto, è piuttosto sintomatico il suo atteggiamento di condanna e di addirittura lezione morale su una vicenda che ha ancora contorni piuttosto vaghi. Allora, il senatore Stefano Pedica, Italia dei Valori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Senatore, oggi un quotidiano che mi sembra Il Riformista, quotidiano diretto da Antonio Polito, che certamente ce l'ha un po' con l'Italia dei Valori, diciamo la verità, insomma, con Di Pietro, non c'è dubbio, però insomma, qui analizziamo i fatti, non facciamo processi alle intenzioni, insomma. Allora, lei attribuisce la palma del politico più demagogo e più irresponsabile di fronte all'ondata di scioperi dei trasporti pubblici, che va senza dubbio, dice un esponente dell'Italia dei Valori, il senatore Stefano Pedica. Questo perché? Perché lei ieri, secondo l'interpretazione o maliziosa del Riformista, arringava i dipendenti in sciopero, comunque in agitazione, dell'Alitalia. Lo sciopero Alitalia, lei ha detto ieri, questo è vero, non dovrà essere diluito fino al 15 maggio, ma deve proseguire a oltranza. Insomma, si è messo dalla parte degli scioperanti, è così? Noi ci siamo messi dalla parte di quelli che hanno subito le prevaricazioni. Noi non aiziamo la folla, non aiziamo i dipendenti, sono abbastanza intelligenti da capire che lo sciopero bianco è un atto che va compiuto non in mesi alternati com'è questo sciopero dei 15 giorni fino a maggio 2009, ma ha fatto un'azione forte che è decisa proprio per tutelare le persone che guadagnano non, come fa capire il ministro Cartelli, centinaia di migliaia di euro l'anno, ma ci sono dipendenti che guadagnano 1200 euro. Se questi, come dice Castelli, definisce dipendenti privilegiati, noi e io personalmente difendo questi privilegi. Però al di là della polemica con Castelli, non ci importa niente di quello che ha detto Castelli, il punto qui è un altro. Lei fa parte di un partito, per carità, altre volte Di Pietro è andato a Fiumicino ad arringare i manifestanti, gli scioperanti, dicendo che i veri delinquenti non sono loro, i veri responsabili non sono loro, ma sono altri, tra cui i politici che hanno mandato l'Alitalia allo sbaraglio, e poi gli imprenditori della CAI che sono tutti al soldo di Berlusconi, eccetera eccetera eccetera. Però insomma il punto è un altro, cioè lei dice che lo sciopero a oltranza deve continuare, cioè, ma qui c'è un danno agli utenti che è enorme. Voi dovreste essere un partito che tiene a queste cose, oppure no? Lo ripeto, noi non siamo per lo sciopero a oltranza, è uno sciopero bianco legittimo che stanno facendo, e è contro la prevaricazione, contro... No, mi scusi, però lei ha detto deve proseguire a oltranza, lei ha detto deve proseguire a oltranza, cioè... Lo sciopero bianco, non lo sciopero bianco, lei come ben sa è quello che stanno attuando in questo momento, cioè uno sciopero dove si spiegheranno anche ai cittadini la verità, cioè che una cordata appunto è stata imposta. Noi abbiamo chiesto un'asta libera, un'asta vera, e non c'è. Una CAI che è rappresentata appunto da persone che a oggi ci risultano alcuni hanno dei problemi giudiziari, e allora noi vogliamo tutelare un paese, lo chiederemo anche al capo dello Stato, dobbiamo capire questo. Ma lo ripeto, noi siamo dalla parte dei cittadini e dei lavoratori. Credo sicuramente che gli utenti, io viaggio e subisco anche io gli stessi ritardi appunto di chi viaggia in questi giorni, capiscano e sappiano appunto qual è la verità. Scusi però, senatore Pedica, lei ci sta dicendo adesso che appoggia lo sciopero bianco, cioè la continuazione delle attività di Alitalia, eccetera, però lei ieri non ha detto questo, lei ha detto lo sciopero dell'Alitalia, non lo sciopero bianco, l'interruzione del servizio come è stato attuato ieri sera dai dipendenti, da una parte piccolissima dei dipendenti, questo voi lo avete appoggiato, lei in particolare lo ha appoggiato o no? Noi abbiamo appoggiato e abbiamo risposto ieri a quello che il governo ha lanciato, diceva appunto che quello di ieri era una manifestazione fatta da persone che bleffavano, e i lavoratori naturalmente non bleffano, i lavoratori hanno risposto, lo ripeto, su quell'atto di prevaricazione che recita appunto la CAI vuole mandare a casa le donne in stato interessante, le mamme con i bambini piccoli, i portatori di handicap e quelli che non possono fare i doppi turni. Siamo preoccupati per questo. E dunque è giustificato il tipo di azione che hanno fatto 300 o giù di lì? Insomma, Sono 300, erano migliaia insomma, di persone, non sono solo 300, questo è quello che vogliono far risultare. Fortunatamente i giornali hanno parlato e hanno detto che erano migliaia di persone, non erano sicuramente solo quelli che erano vicini a un certo tipo di ragionamento politico, erano tante persone che curavano i loro interessi, il loro futuro, guardavano il futuro che oggi con questa CAI non c'è. Ci sono dei tanti punti in sospeso che devono appunto chiarire, ed è questa appunto la forma, è una forma di rispetto e di democrazia. Se il governo impone, bisogna che capisca che bisogna trattare, non bisogna imporre. E dunque anche loro fare... non sono gli schiavi, loro sono lavoratori e cittadini. E dunque anche fare iniziative che, da quello che sembra, sono illegali, cioè al di fuori dei termini dello sciopero, c'è stata una precettazione, eccetera, per lei va bene? Non sono azioni illegali. Lo sciopero bianco è il rispetto delle regole. Non lo sciopero bianco, non lo sciopero bianco, mi perdoni. L'astensione dal lavoro, come sembra, che è stata fatta da una parte dei dipendenti che ha bloccato gli aeroporti di Linate e di Fiumicino. Non si sta parlando. Per quello che ero presente io ieri, noi abbiamo detto che siamo d'accordo appunto con gli scioperi per, e lo ripeto, contro le prevaricazioni di questo governo. Non siamo d'accordo appunto con degli scioperi imposti, ma non siamo neanche d'accordo, lo ripeto, con un governo che tratta i propri dipendenti come delle persone da ricattare oppure da dire solo sì signore. Noi siamo contro, lo ripeto, le prevaricazioni, e ogni parlamentare deve essere contro le prevaricazioni. Dunque lei la palma del politico più demagogo non se la sente attribuita addosso? Non so. Assolutamente. Io sostengo i lavoratori come l'ha sostenuto Di Pietro, come l'ha sostenuto altri colleghi parlamentari dell'Italia dei Valori, e continueremo a farlo, continueremo a sostenerli, continueremo a far capire anche, io ho riferito anche al capo dello Stato, che questo appunto è un punto dolente, noi vogliamo un'asta libera, ci deve spiegare il perché una CAI appunto con, all'interno delle persone che rappresentano problemi con la giustizia, ecco, un dipendente per essere assunto deve chiedere i carichi pendenti di casella giudiziale e invece i soci della CAI appunto sono all'interno di indagini giudiziarie. Io credo che questo lo capiscono anche gli utenti che in questo momento si stanno sacrificando perdendo ore e ore in attesa di prendere il volo, ma se capissero tutto questo, e qui la stampa ci deve aiutare per spiegare perché questi dipendenti stanno scioperando, non per i soldi. Non si potrebbero spiegare tutte queste cose senza bloccare gli aeroporti? Non si potrebbe discutere di queste cose? Certo, è legittimo farlo senza bloccare gli aeroporti all'improvviso, costringendo persone che devono andare in Canada o in America a fare nottate negli aeroporti? Sì, ma infatti si dovrebbe fare così, con un governo che ascolta. Il problema è che questo governo non ascolta, ma impone. Sì, d'accordo. Lei sta facendo una valutazione sull'atteggiamento del governo, che per carità è legittima. Io dico, da parte dei lavoratori, non si potrebbe discutere senza bloccare gli aeroporti? Se c'è una persona che è pronta ad ascoltare, sì, ma non c'è. E dunque è giusto occupare gli aeroporti? Non è giusto occupare le ruote, è giusto sensibilizzare questo atto di prevaricazione che il governo sta facendo, o con me o contro di me, e questo non è il dialogo, ed è giusto appunto che segnalino il governo che non vuole un dialogo con i lavoratori, ma vuole solo i... Anche in questo modo, perché il diritto del lavoratore credo che sia prima in assoluto, chi vuole comandare deve invece dialogare. Questo governo fino ad oggi ha fatto solo decreti legge, speriamo... in un passato, in un presente, in un futuro che non faccia quello che ha fatto negli anni precedenti. Io credo che sia partito male, è partito male già nel tempo passato, è partito male dicendo che voleva solo una cordata italiana, mi sembra di aver capito che dalla CAI che stanno cercando un partner straniero che prenda almeno il 20% dei quadri azionari, questo è un discorso che non ci piace, non ci è piaciuto, allora potevamo restare a quello che avevamo fatto con il governo Prodi, e cioè un Air France da vedere e da tutelare, naturalmente avrebbero accettato tutti, e sicuramente quei 300 migliori non li avremmo sicuramente regalati come sta facendo adesso in questo governo, ma l'avremmo appunto fatti restituire all'acquirente. La ringrazio, senatore, buona serata. Prego, buona serata. Simone da Padova, buonasera Simone. Sì, buonasera. Dica. Niente, io non volevo essere banale nel mio intervento, mi riferivo un attimo alla frase di Berlusconi relativamente a Obama. Cosa c'è da aggiungere? Ma diciamo, è ovvio che la frase è fuori luogo nel modo in cui è stata detta e nell'ambito in cui è stata detta. La critica che volevo fare era comunque diversa, nel senso che la sinistra fondamentalmente mi sembra che utilizzi un pochino queste uscite sbagliate del Presidente del Consiglio per andare a criticare in maniera incostruttiva l'operato del governo. Quindi quello che io da elettore di 34 anni chiedevo e dicevo è che secondo me sono entrambe le fazioni sono molto lontane dal popolo degli elettori. Ma guardi, infatti, Simone, io non lo so se sono lontane dal popolo degli elettori, non è questo il punto, e non mi interessa nemmeno il modo in cui il Partito Democratico, il centrosinistra, ha criticato la battuta di Berlusconi o l'uscita di Berlusconi. Ognuno fa il mestiere che fa. Non so se l'opposizione in questo caso ha fatto bene il suo mestiere, non ero nemmeno in Italia, non mi interessa. Il fatto è uno, al di là delle reazioni del Partito Democratico, che secondo me è indifendibile Berlusconi in quell'uscita. Certamente non c'è razzismo, e però è indifendibile, secondo me. Andiamo subito con i titoli dei principali telegiornali della sera. Iniziamo dal TG5. All'Italia, nonostante la precipitazione, ancora caos negli aeroporti, 100 voli cancellati, linea dura del governo, critiche anche da opposizione e sindacati, aperte 2 inchieste. Basta catastrofismo, più controlli nella finanza e aiuti per rilanciare l'economia, così Berlusconi, incontrando il presidente brasiliano Lula, pieno sostegno ad Obama. Caso Englaro, attesa per la Cassazione, il Vaticano, staccare l'alimentazione sarebbe una mostruosità. A Londra una 13enne rifiuta il trapianto di cuore, riconosciuto il diritto a non curarsi. In Val Camonica un immigrato uccide il suo datore di lavoro dopo una lite. A Rimini grave un senza casa dato alle fiamme mentre dormiva. La uccisero per paura che fosse incinta. Condannati a 20 anni i tre assassini minorenni di Lorena. Il padre ci voleva la pena di morte. Un anno fa la morte di Gabriele Sandri, il capo della polizia, porto il senso della responsabilità. Il padre di Gabbo tra Roma e Lazio domenica sia un derby tranquillo. Già tutto esaurito e prezzi alle stelle a Washington per l'insediamento di Obama il 20 gennaio. Attese 2 milioni di persone, caccia all'invito. Va bene, il TG5 chiude con la caccia all'invito, notizia un po' vecchiotta di un paio di giorni sulla caccia all'invito per l'inaugurazione, per l'insediamento di Obama il 20 di gennaio. Intanto il TG1, sentiamo. All'Italia anche oggi decine di voli cancellati, la rabbia dei passeggeri, il ministro Matteoli ed Enrico Letta ospiti del TG1. Berlusconi e Tremonti, aiuti per famiglie e imprese, borse in forte calo, male General Motors e Banca Intesa. Il Vaticano, un assassinio a far morire Eluana per fame e sete, sulle staminali embrionali frena Obama, non servono le cure. 20 anni di carcere ai tre minorenni che a Niscemi violentarono e uccisero Lorena, il padre, troppo poco. Scandalo calcio, associazione per delinquere, al processo Gea chiesti 6 anni di carcere per Luciano Moggi e 5 per il figlio. La pesca illegale, un flagello per la salute dei nostri mari, tonni e pesce spada i più colpiti, 1200 i posti di lavoro in crisi. Andiamo subito a sentire altri ascoltatori, a partire da Treviso. Giuseppe, buonasera. Cos'è, nonno? Treviso, Giuseppe. Pronto? Eccoci. Pronto? La sento. Purtroppo mi trovo in una zona che prende... Mi sente? Io la sento perfettamente. Vabbè, insomma, parolacce in onda, in diretta, succede, bisognerebbe evitarle, caro ascoltatore da Treviso, ma insomma, siamo in diretta e può succedere anche questo. Andiamo a Milano, Nicola, buonasera. Buonasera. Sì, per punizione non sentiremo l'ascoltatore da Treviso dopo. Nicola, sì. Dica. Sì, buonasera, io volevo parlare di coppie di fatto. E perché mai? Così, perché volevo farle una domanda riguardo la mia situazione. Prego. Io ho avuto da un paio di mesi un bimbo. Convivo con una ragazza casalinga da un anno circa. Mi sono trovato nell'esigenza di mettere, di richiedere le detrazioni fiscali e gli assegni familiari per il bimbo e per la mia compagna. Solo che per il bimbo si può fare, ma per la mia compagna non si può fare perché non risulta coniugata. D'altro canto, allora ho provato a chiedere per la mia compagna l'assegno di maternità, in quanto casalinga ne avrebbe diritto. Però relativamente a quella pratica risultiamo nello stesso stato di famiglia, quindi il mio reddito incide nel computo della sua eleggibilità, per cui c'è questa discordanza, questo paradosso, dice lei. Esatto. Io ho chiamato l'INPS e la risposta è stata siamo in Italia e purtroppo è così. Beh, quindi, la risposta che le ha dato l'INPS è piuttosto curiosa, certamente per essere un funzionario dell'INPS. Nicola, cosa vuole che le dica? Non ho le carte in mano, dovrebbe chiamare qualcun altro per farsi risolvere questo arcano. Ci sono tantissimi esperti al Sole 24 Ore. Come, scusi? Che lei sappia, il governo non ha fatto nulla in questa direzione. Ma guarda, ci sono provvedimenti sulle coppie di fatto. Non credo proprio. Qualche esponente del centrodestra, lo ha fatto Brunetta qualche mese fa, ha accennato ad un ipotetico provvedimento sui diritti per quello che riguarda le coppie di fatto, ma mi sembra che siamo molto lontani da un'ipotesi di questo tipo. La ringrazio. La 7, abbiamo i titoli molto brevi, forse no, c'è uno stato di agitazione da parte dei giornalisti, dunque non ci sono i titoli della 7. Prima della pubblicità voglio sentire Sara da Milano. Sara, buonasera. Buonasera. Prego. Io volevo parlare della questione dell'università, che a cui lei aveva accennato prima, parlando appunto del rettore di Foggia. Io ho appena finito l'università a Milano e volevo appunto dire. Sara, mi scusi un attimo. Al TG1 sono ospiti il ministro Matteoli e Letta sulla vicenda all'Italia. È importante anche l'università, però un attimo poi torno da lei. Come Matteoli. Che voi avete detto, ma molto probabilmente non è più sufficiente la progettazione, perché è necessario passare immediatamente alle sanzioni. E siccome ho la impressione che in questo sciopero fatto in maniera veramente indefinibile, ci sia anche il codice penale intaccato, e quindi dobbiamo procedere anche da questo punto di vista. Non è possibile consentire a 250-300 persone di bloccare il trasporto aereo in Italia così come sta accadendo. Letta, voi avete sostenuto Air France, ma adesso la situazione va sbloccata senza paralizzare il paese a Natale. Cosa proponete? Sì, assolutamente, tre cose subito che vanno fatte. La prima, bisogna accelerare i tempi di questo accordo internazionale, perché è fondamentale che la nuova compagnia, la nuova Alitalia, dia l'idea che c'è un futuro, e questo futuro non può che essere con un'altra grande compagnia internazionale. In secondo luogo, linea dura con i comportamenti illegali, c'è quello dei 130 che hanno bloccato tutto, però linea dura anche nei confronti di quei piloti che oggi con lo sciopero bianco stanno facendo ritardare, applicando i regolamenti alla lettera in modo profondamente sbagliato. Non è questa la strada giusta. E terzo elemento, un lunedì come quello che l'Italia ha passato, con i danni economici che ha portato, non può essere ripetuto. C'è bisogno di nuove regole per lo sciopero, soprattutto nei servizi essenziali. Sembra la stessa linea in realtà quella di Letta del ministro Sacconi. Bisogna vedere se tutti all'interno del Partito Democratico la pensano come Letta, e anche se tutti all'interno della PDL la pensano come Sacconi. Sara, prego. Sì, buonasera. Niente, quello che lei diceva della situazione di Foggia in realtà oggi mi sembra un po' essersi dimensionato, e proprio per questo io non mi sono così scandalizzata, perché appunto avendo appena terminato l'università a Milano mi sembra una situazione che non è poi così diversa da quella di un sacco di università del nord, quella che ho fatto io appunto nello specifico, in cui ci sono un sacco di ricercatori, non così tanti, però insomma ci sono casi in cui ricercatori sono figli di professori, il che... No, ma certo, non riguarda solo Foggia, e comunque la situazione a Foggia non è che si è ridimensionata, non si è ridimensionata, sì, per niente. Ieri quando... nel senso che ieri quando lei ha dato la notizia sembrava appunto essere più clamorosa, oggi quando lei parlava di questo rettore, insomma, si è giustificato, non dico che la cosa sia giustificabile di per sé, però ha dato delle spiegazioni che potevano essere verosimili. Sì, le spiegazioni sul modo in cui ha incontrato la moglie, che sì, era già... Esatto, quella della moglie. Sì, sì, no, certo. Poi spesso le cose giornalistiche vanno anche, sì, esatto, depurate e poi, certo, successivamente un po' vagliate, insomma, non è che ci sia scandalo in ogni cosa. Certamente no, è curioso, sì, il fatto che 4-5 persone e poi anche altre, per quello che ci segnalano alcuni ascoltatori, gravitino intorno alla famiglia, intorno alla persona del rettore. Scusi, no, vorrei entrare. Prego, prego. No, che questa situazione vi sia in situazioni simili vi sia in tantissime università, comunque è vero. Deve anche vero che secondo me il discorso dei concorsi non ha più così tanto senso forse adesso nell'università, del concorso per accedere appunto alla carriera universitaria. No, perché di fatto non esistono più questi concorsi. No, ma sono concorsi finti. Oggi c'è un interessante articolo di Francesco Giavazzi sulla prima pagina del Corriere della Sera a proposito della paura del sorteggio delle commissioni proposto dalla Gelmini all'interno del decreto sull'università da parte dei ricercatori, degli associati, perché insomma quelli che devono essere assunti hanno un po' paura, era tutto già sostanzialmente deciso. La ringrazio, Sara. Andiamo a Padova. Fabrizio, buonasera. Buonasera a lei, tanto complimenti per la trasmissione e per la sua persona. Grazie, che sa essere super partas. Io voglio fare una piccola premessa, io ho 40 anni, per motivi lavorativi ho girato l'Italia in lungo e in largo, faccio professionista e faccio parte di quelli che diciamo il cliente si spoglia, per cui vedo esattamente com'è la situazione. L'Italia ha un grandissimo problema, si chiama nepotismo. Il nepotismo ha intaccato soprattutto la parte pubblica più che privata, solo perché nel privato c'è l'imperativo bisogna guadagnare, e per cui quando la persona che non è adeguata al ruolo che va a ricoprire crea danno, poco o tanto bisogna sollevarla da quel ruolo. Io credo che faccio parte di quegli italiani che hanno pianto quando Alitalia in qualche maniera è stata salvata. Non credo assolutamente, come il resto della scuola, magari la Gelmini sta sparando, anzi sicuramente sta sparando sul mucchio, però si arriva a un punto che il tumore ormai crea così danno al corpo che non puoi permetterti di andarci cauto. Bisogna rompere degli equilibri, bisogna rompere delle forze, bisogna far sì che il potere che ha creato questa metastasi crolli. Per fare questo bisogna sparare sul mucchio, sfortunatamente, e sicuramente molte persone che non meritano verranno coinvolte, ma forse lo meritano anche, perché tutti quelli che sono stati in silenzio, in omertoso silenzio, facendo sì che queste forze, questi poteri si creassero a danno di quello che doveva essere il giusto. E non dimentichiamoci che la scuola, almeno questo secondo me, insieme alla sanità, dovrebbe essere un diritto fondamentale, perché la scuola per la società è fondamentale, permette elementi che secondo me sono la ricchezza del paese. E dunque, Fabrizio, andiamo un po' al sodo di questo ragionamento. Mi spiace che di fatto, ma per me sarebbe stato meglio che l'Italia saltasse. Non risolveranno il problema, lo stanno dimostrando, e non verrà risolto soprattutto per gli italiani che continueranno ad averla sulla groppa. Va bene, la ringrazio, però torniamo sempre allo stesso punto: era meglio che l'Italia fosse fallita, era meglio la vendita del France. Sono tutte cose che appartengono ormai al passato, vanno sempre ricordate, per carità, però sono cose, ormai abbiamo a che fare con un'altra vicenda, è un altro canovaccio quello che si sta dispiegando. Andiamo a Treviso. Stefano, buonasera. Buonasera. Prego. Sono un po' emozionato per parlare in radio. Comunque, volevo intervenire relativamente, visto che avete ritirato fuori la questione Carlucci. Perché in un certo senso è un simbolo dell'arroganza della politica per alcuni per alcune questioni, non so se non è una scusi cosa perché molto perché Stefano simbolo dell'arroganza della politica la vicenda Carlucci? Non questa vicenda in particolare, ma l'anno scorso, in occasione del rinnovo del direttore del CNR, è stato nominato Maiani da una commissione organizzata dallo scorso ministro dell'università. E adesso non mi viene in mente. Comunque, la Carlucci fece un'interrogazione parlamentare perché secondo lei questa nomina non era valida. Maiani è un fisico internazionale di fama, è stato anche direttore al CERN di Ginevra, ha collaborato alla costruzione dell'LHC. Credo che ci fosse di mezzo, mi scusi Stefano, ci fosse di mezzo la vicenda del Papa alla Sapienza, se non sbaglio. Credo che Maiani fosse uno dei promotori di quel manifesto contro la presenza del Papa all'inaugurazione. Se non ricordo male. Maiani era uno di quelli, in effetti. Sì, no, però la vicenda era quella, ma insomma, che c'entra adesso con colleghi? Nella Carlucci, mi scusi. No, praticamente il punto è che la Carlucci fece questa interrogazione parlamentare. Vabbè, questo è nei suoi diritti, poi che fosse un'iniziativa campata in aria o comunque una cosa per protestare contro quelli che non volevano il Papa la Sapienza, questo è un altro discorso. Qual è il punto? No, non era questa la motivazione, almeno non la motivazione che addusse la Carlucci. La motivazione era, a suo parere, non era un fisico teorico valido, quanto l'unico articolo che aveva scritto che appunto lo ha reso famoso è quello in collaborazione con un Nobel per la fisica. Ho capito. Peccato che il Nobel per la fisica ha scritto alla Carlucci dicendo: guardi, non sa quello che dice, Maiani è un fisico valido, e cioè lasci perdere. Dunque, secondo lei la Carlucci non ha fatto bene il suo mestiere di parlamentare, questo vuole dire? No, più che altro il Nobel, cioè la Carlucci ha perfino risposto al Nobel dicendo: guardi, io so bene, Maiani non è un valido fisico. Insomma. Vabbè, ho capito Stefano, però ripeto, qui si tratta di un'altra cosa, è stata inseguita dalle Iene perché poco presente alle votazioni, cosa che non risulti, non voglio difendere... Non voglio difendere la Carlucci, non mi interessa. Se è presente così tanto, faccia anche cose utili, perché se fa cose a casaccio, tanto probabilmente perché era stata, come dire, perché non era andato su quello che voleva lei, probabilmente perché c'era anche di mezzo Zichichi. Cioè, lasci perdere, è meglio che non lavori. Vabbè, sì, però, questo però è una vecchia questione, per carità. Sicuramente la Carlucci in quel caso ha agito solamente per criticare la vicenda di Magliani col Papa e magari ha sbagliato nel definire Magliani una persona non in grado di adempiere a quel compito all'interno del CNR. La ringrazio Stefano. Collegamento, ricordandovi sempre l'800240024, con Nino Botta, che è sindacalista della CISL Reggio Calabria. Buonasera. Pronto, buonasera a lei. Allora, Botta, è vera questa storia del carcere fantasma, come scrive oggi il Corriere della Sera, perché manca la strada, 90 milioni è costato per custodirlo, 2,5 milioni all'anno. Mi dica che non è vero, perché non ci posso credere. Guardi, la cifra per quanto riguarda i 90 milioni di euro, su quello non posso confermare perché non ci è dato sapere in realtà quanto abbiamo speso oggi per quella costruzione. In realtà quello che ho letto è che si dice che il carcere è completo dal 2005, in realtà non è così. Il carcere è solo completo all'80%, perché manca solo la strada, che è la questione principale soprattutto, perché per arrivarci in questo momento c'è una stradina interpoderale, chiamano una mulattiera più che l'altro, no? Sì, che ha avuto un po' di problemi per far passare anche, diciamo, gli addetti ai lavori per la costruzione. E lì era prevista un collegamento con di una bretella diretta sull'autostrada, per una questione anche di sicurezza, perché stiamo parlando di un carcere che è una casa di reclusione, soprattutto di un carcere di massima sicurezza, e quindi l'accesso doveva essere direttamente collegato con la Salerno-Reggio Calabria. Cosa che non è stata fatta, dunque non c'è solamente la strada piccola di accesso, ma anche il resto che manca. Ma il resto che manca, per le strutture, per quanto riguarda, dovranno ospitare le guardie, no? Sì. Non esistono quelli là ancora. Dunque anche il carcere stesso, la sua struttura non è completa, lei ci sta dicendo. Non è struttura, è completa all'80%, anche perché c'è stata una riforma carceraria, dobbiamo ricordare che molti lavori che sono stati già, diciamo, completati, no? Dovranno essere pure rifatti, perché, per esempio, voglio ricordare che la nuova riforma prevede che nelle celle dei detenuti ci siano le docce, no? Sì. Quando è stato costruito le docce sono al di fuori delle celle, adesso dovranno essere rifatti quei lavori, oltretutto, no? D'altra parte bisogna ricordare, Botta, che la storia di questo penitenziario inizia addirittura nel 1988, cioè 20 anni fa, quando era sindaco Falco Matà. Sì, è vero. Dunque una storia di 20 anni fa, evidentemente la costruzione, poi la gara d'appalto fu indetta nel 93. Però evidentemente sono state costruite stanze e celle non adeguate agli standard attuali. Quindi è già vecchio prima che nasca. Senta, mi può dire chi ci lavora? È vero che c'è un custode comunque? Lì c'è solo un impiegato per quanto riguarda la MC, che è la ditta, diciamo, costruttrice, che funge da guardiano, che fa un po' di manutenzione all'interno. E ogni tanto si fa vedere qualche responsabile dell'azienda, perché hanno un ufficio, anche perché ricordiamo che lì attualmente proprietaria è l'azienda, no? Perché non ha mai lasciato il posto, non ha mai lasciato il lavoro, no? Sì. E quindi possiamo anche capire cosa significa questo. Significa che l'azienda ogni anno chiede il conto allo Stato. Dice: io sono qui, non mi permetti di lavorare perché mancano i progetti esecutivi, però tu mi devi pagare. Quindi la presenza del guardiano, la presenza anche dell'ufficio, queste qua sicuramente sono delle somme che l'azienda richiede. Certo, e i motivi per cui questi lavori sono stati iniziati, poi fermati, proseguiti, rifermati ancora, quali sono? A parte la definizione generica intoppi burocratici. Si parla di che non hanno mai avuto in realtà una progettazione esecutiva, una progettazione finale, in poche parole, no? Si erano iniziati, poi ecco le nuove riforme, prima doveva essere casa di reclusione, poi si era parlato di trasformarla in clinica carceraria. Poi si era parlato, siccome il carcere di Reggio Calabria è in sovraffollamento, portarlo come casa circondariale, che non è possibile in realtà, perché nasce come casa di reclusione. Non risolverebbe neanche il problema di Reggio Calabria. Io mi ricordo che c'era una dichiarazione dell'allora sottosegretario Valentino che diceva: sì, adesso in realtà spostiamo i detenuti dal carcere di Reggio Calabria, li portiamo ad Arghillà, e la struttura del carcere, diciamo, di Reggio Calabria che oggi c'è attualmente verrà, facciamo una riconversione, vediamo cosa possiamo fare lì, no? Ma ma non è neanche possibile, perché come dicevo prima, questo è un caso di massima sicurezza, visto che al sud mancano queste strutture di massima sicurezza. Questo nasceva proprio per non fare dei detenuti, cioè, lei dice non servirà ad alleggerire il carcere di Reggio Calabria, e c'è anche un commissario straordinario che ha detto che si vuole dimettere dal 1 dicembre 2006, tanto per semplificare ancora le cose, un commissario straordinario. Ed ha ragione, credo, perché da allora, da quando è stato nominato, non ha fatto nulla. Sì, no? Ma c'è un paradosso ulteriore, anni di ritardi, e addirittura poi un commissario straordinario che minaccia di dimettersi. Insomma, è la follia più assoluta. Botta, la ringrazio. Vigili ancora, controlli, ci informi, perché quello che tanto possiamo fare, noi cerchiamo sempre di mantenere alta l'attenzione, almeno per fare che questo al modo che non sia un'ennesima compiuta. Ma già in compiuta, lo è, in ogni caso lo è. Campa cavallo prima della fine, sicuramente. La ringrazio. 20:28, andiamo a sentire Fabio D'Asti, prima della borsa. Fabio, velocemente. Buonasera dottor Gucciani, volevo fare un intervento sempre sul solito tema Alitalia. Sì. Prometto che io sono un ex cliente Alitalia, che dopo aver subito scioperi più o meno selvaggi ho deciso di rivolgermi ad altre compagnie. In questo momento c'è discussione, scioperi o altro, e in un momento di recessione economica, quindi anche di un calo di passeggeri, altre società, altre compagnie stanno prendendo il posto di Alitalia su diverse rotte. Allora? Ad esempio Lufthansa si sta riposizionando su Malpensa con 10 nuove rotte, quindi mi domando cosa ne sarà della nuova Alitalia nel momento in cui si metteranno tutti d'accordo, e nel frattempo altre linee, altre compagnie avranno già preso. Beh, Fabio, è certamente una sfida in più, anche perché non conosciamo ancora con esattezza quali saranno le rotte, qual è davvero il piano industriale e commerciale della compagnia che dovrebbe prendere via il 1 dicembre, salvo imprevisti. Tra l'altro moltissimi ascoltatori, a proposito della vicenda d'Italia, ci ricordano che cosa? Che perché ci sono proteste, i licenziati, quelli che rimarranno senza lavoro, ma ci sono 7 anni di cassa integrazione all'80% dello stipendio, cosa che naturalmente nessun lavoratore normale di questo paese conosce. TG2. Ancora disagi per la protesta di un gruppo di piloti e hostess, decine di voli cancellati, la rabbia dei passeggeri, la magistratura apre un'inchiesta. Linea dura del governo, Matteoli, se la precettazione non basta, pronti a usare il codice penale. Maroni, stop all'illegalità. Il PD, forme di lotta dannose per i lavoratori. Crisi economica, Berlusconi, stiamo lavorando a misure per il sostegno a imprese e famiglie. Tremonti, pronti nuovi investimenti. Un'altra giornata nera per le borse europee. Il Vaticano esprime preoccupazioni per l'intenzione di Obama di rivedere le norme restrittive sulle cellule staminali embrionali, e la Santa Sede ribadisce: non staccate la spina de Luana. 20 anni ai 3 minorenni che uccisero Lorena, anni scemi, imputati in lacrime. Lo sfogo del padre della ragazza: questa non è giustizia, meritavano l'ergastolo. Bene, allora più veloci qui gli interventi, perché alle 20:42 dobbiamo chiudere, sono le 20:36. Allora Alessandro D'Ascoli Piceno. Buonasera Alessandro. Buonasera dottor Cruciani, anzitutto ribadisco l'affermazione che ha fatto poco fa lei. Si chiede solidarietà anche a lavoratori che poi normalmente, se le proprie aziende hanno problemi, non beneficiano di 7 anni di cassa integrazione all'80% dello stipendio. Per di più si chiede solidarietà sull'attuale ondata di scioperi, perché praticamente pare che ci siano stati stravolgimenti dell'offerta CAI rispetto alla prima piattaforma firmata da tutte le sigle sindacali, se non sbaglio. Ma io, con tutta la buona volontà che ho avuto, no, nel fare ricerche su internet, nel leggere il più possibile gli organi di stampa, eccetera, francamente ho fatto fatica a trovare i 2 documenti su cui si contende. Oh, bravo, perché questa è un'operazione che ho tentato di fare anch'io. Fatica. Non abbiamo in realtà visto una cosa molto semplice, che alcuni sindacalisti ribelli, diciamo, quelli che adesso dicono di no ancora, o addirittura quelli che fanno lo sciopero bianco, non ci hanno fatto capire una cosa. Mettete a confronto, se ci sono i pezzi di carta, l'accordo del 30 settembre con quello che adesso propone CAI. Fatecelo vedere a tutti, sarebbe un'operazione molto semplice, molto facile, no? Un'operazione trasparenza. E invece clamorosa. Perché non avviene? Perché evidentemente non era chiaro, come abbiamo già detto ieri, quello che è stato deciso il 30 settembre, si è semplicemente deciso di spostare più là il problema, questo è il punto, no? Ma io pensavo che il mio intervento fosse ingenuo e anche banale, ma a questo punto vedo che anche lei, come giornalista, non ha avuto modo di verificare gli stravolgimenti. Ma io, per carità, poi sono convinto che entrambi i documenti siano, come dire, piuttosto grossi e sostanziosi, ma la semplice contrapposizione dei vari punti, dei vari articoli, questo è veramente importante. Ho fatto ricerche sui siti dei sindacati, sui siti delle varie sigle. Cioè, fosse così clamorosa la cosa, gli stessi sindacalisti che adesso dicono di no avrebbero fatto vedere a tutti quali sono le cose firmate prima e dopo le cose non rispettate. Certo, la ringrazio più veloci adesso gli interventi. Massimo da Lecce, prego Massimo. Sì, mi sente? La sento, dica. Sì, buonasera. Niente, devo essere telegrafico. Sono due mesi che tutti i mass media ci bombardano sulle responsabilità dei dipendenti all'Italia. Io non sono dipendente all'Italia, sono bancario, ho 43 anni, quindi non mi interessa, non sono direttamente coinvolto. Però voglio dire, quello che vedo da spettatore esterno è che per due mesi ci stanno dipingendo come i dipendenti all'Italia sono fatti passare come i massimi responsabili dello sfascio, perché se lei adesso fa un sondaggio sulla popolazione italiana vedrà che il 70% della popolazione italiana addossa tutte le responsabilità ai dipendenti all'Italia, che sono coloro che hanno in assoluto, dicono, con i privilegi hanno portato la compagnia allo sfascio. Sì, ho capito. Allora stanno dipingendo i dipendenti in questo modo. E questo è sbagliato, secondo lei è sbagliato. Sì, certo. Prima cosa, seconda cosa, un po' più di rispetto per gente che sciopera e che ci rimette soldi in busta paga, perché non ci lo dimentichiamo, a fine mese questa gente avrà 100-200, ogni giornata di lavoro di sciopero comporterà dalle 80 lo sciopero euro, bianco tipo. Non è così, comunque. Vabbè, Massimo, allora, non me ne interessa. Avrei gradito che i mass media si fossero concentrati per due mesi, da settembre, da quando furono fatti i primi accordi sino ad oggi, su coloro che hanno portato all'Italia allo sfascio, cioè sui vari manager, sui vari amministratori. Guardi, delegati, che è stato scritto tutto, Massimo, ma su no, questo. Massimo, ma il problema non è solamente dei manager, ma è anche di chi li ha nominati, cioè della politica, ed è stato detto ed è stato scritto più volte, e anche e soprattutto dei sindacati che sono stati conniventi con le scelte aziendali da questo punto di vista. La ringrazio, andiamo velocemente a Saro da Torino, 30 secondi, Saro, dica. Sarò velocissimo. Senta, io volevo soltanto parlare di satira. Ieri sera ho visto Matrix di Mentana. Sì. E c'era una polemica, mi pare si chiama Facci, il giornalista di Mediaset, sì. E quella ragazza Lura. Lura Gebreal, sì. Ecco, perfetto, niente. Io dicevo, volevo sapere cosa ne pensava lei del fatto che Facci diceva, mi pare di aver capito questo, che la satira è satira, è fatta in teatro, è fatta dal comico, che batte a destra e a sinistra, è giustissima. Ma lui diceva, un comico come Guzzanti, fratello e sorella, che fanno satira sempre dalla stessa parte, e poi vanno in piazza a manifestare con quelli di sinistra, non fanno più satira ma fanno politica. Cosa ne pensa? Permetto una cosa. Non sono un elettore di destra, anzi, ho un fratello deputato regionale in Sicilia, sono di sinistra. Salute. Guardi, Saro, non ho visto la trasmissione ieri sera, ho visto solamente degli stralci oggi su internet, non le so dire. Che la satira, diciamo, di Sabina Guzzanti e in parte anche, ma non del tutto, del fratello siano un po' unidirezionali, è così, ma ognuno fa satira come vuole, non è assolutamente un'accusa. Mi sembra che, tra l'altro, Corrado Guzzanti sia, non è che faccia militante politico, cosa che invece fa Sabina Guzzanti. La ringrazio. Alessandro da Biella, velocemente. Alessandro, buonasera. Sì, buonasera. Senta, io chiamo per un motivo molto semplice. Biella è un distretto tessile, noi piccole e medie imprese abbiamo perso migliaia di lavoratori, molti di più dell'Italia, ma in generale in Italia, in questo settore, ma nella normale dinamica le aziende hanno chiuso, sono fallite. Allora mi chiedo solo questo, perché l'Alitalia non è fallita come tutte le altre imprese? Cioè, c'è un due pesi e due misure in questo paese, soprattutto nei confronti dei dipendenti dell'Italia che magari potendo lavorare hanno 7 anni di cassa integrazione, questi soldi forse sarebbe meglio darli ai pensionati, che invece lavorare non possono. A me lo dice, la ringrazio Alessandro. Chiudiamo con una tirata di Sabina Guzzanti, appunto all'Università della Calabria, perché incontra anche gli studenti dell'Università della Calabria, che sono lì adoranti. Il Presidente del Consiglio è di per sé anticostituzionale sotto tutti i profili. Nella politica di Berlusconi c'è un disegno autoritario che disprezza le istituzioni. Non abbiamo più un Parlamento, non so se ve ne siete accorti, così come il problema sta nel fatto che non possiamo esprimere preferenze. Il fisioterapista di Berlusconi è un onorevole e quello che ho detto da Santoro in realtà non è una battuta ma è la verità. Una gran fetta del Parlamento è costituita da parlamentari solo di nome e non per la loro storia. Certo, uno può mettere la Carfagna alle pari opportunità se metti il mago Zurlia all'economia. È veramente un colpo di Stato. Quando Berlusconi dice ho vinto le elezioni, in realtà non significa nulla, perché le elezioni non sono solo una parte irrisoria della democrazia. Parte irrisoria della democrazia, le elezioni, questa è straordinaria. Anche Alfano è il portaborse di Berlusconi. Bondi era in realtà il sindaco di una città comunista che ha conosciuto quello che ha costruito un mausoleo a Berlusconi, che glielo ha presentato. Non è diventato ministro della cultura per i suoi meriti. Questa è Sabina Guzzanti, ci sentiamo domani alle 18.30. La Zanzara.